Andiamo avanti, pronto? Buongiorno, sono Maria Rosaria Bianchi, chiamo da Roma. Senta, buongiorno. Io mi occupo da tanto tempo come psichiatra del drammatico intreccio fra psichiatria e diritto, intreccio che nasce addirittura ai tempi degli antichi romani. E così seguivo, leggevo, ascoltavo radio, televisione, i vari titoli per i drammatici fatti di Brindisi e mi veniva in mente, come al solito, che c'è questa grandissima difficoltà ad accettare che non ci sia un movente razionale in alcuni gesti e che il grande matto esiste. E allora mi veniva in mente un caso degli anni 40, che è quello della Leonarda Cianciulli, la saponificatrice, ma faceva anche i biscotti con i resti delle sue vittime, e anche lì il giudice non credeva che avesse fatto tutto da sola e le mise a disposizione una salma di un vagabondo, e lei dimostrò in pochissimi minuti che invece aveva fatto tutto da sola. Allora mi sono venuti in mente anche altre due cose, il caso di Brevnik e anche una trasmissione di alcuni anni fa alla radio, dove c'era alla RAI, dove c'è lo psichiatra Fagioli che dice che c'è una... Innanzitutto, appunto, che la malattia mentale gravissima esiste, come nel caso di Oslo, e poi anche che c'è una tragedia ancora più grande della malattia mentale, che è la negazione della malattia mentale. Forse bisognerebbe chiedersi se il movente non è il movente non razionale di un mafioso che agisce per questione di soldi e di potere, ma è il movente di un malato di mente che ce l'ha con il mondo. Ma perché, mentre sfrutto la sua competenza per farle qualche domanda, ma perché molti dicono è impossibile che un uomo da solo riesca a costruire un ordigno esplosivo così complicato, una bomba. Lo so, è lo stesso caso della Cianciulli, sa, per carità, poi tocca all'autorità giudiziaria di vedere se magari ci sono delle complicità che sfruttano la grande malattia di questo signore. Però io penso che, insomma, forse bisognerebbe iniziare a pensare a queste cose non negando il fatto che la malattia mentale esiste. Ma secondo lei perché si fa così fatica ad accettarlo? Che bella domanda. Perché... penso che in Italia ci sia anche una cultura che abbia molto deformato in questo senso la ricerca, perché purtroppo ormai è da tantissimi anni, da tanto tempo, che si pensa che ognuno di noi da un momento all'altro chissà che cosa può combinare. Questo non è assolutamente vero, altrimenti dovremmo vivere con i cecchini sui tetti e i cecchini poi chi è che li sorveglia? Ecco, forse è il caso di accettare che c'è una parte minima di popolazione che è affetta da queste gravi patologie. Purtroppo il problema è un altro, è che anche se le cifre sono assolutamente minime rispetto per esempio a quelle degli incidenti stradali, questi sono fatti che ci sconvolgono, anche perché sono fatti che molto spesso incidono imprevedibilmente sul nostro quotidiano. E allora veramente è molto, bisognerebbe fare riferimento a questi psichiatri coraggiosi che non si tirano indietro nell'affermare che la malattia esiste, e che forse la psichiatria è veramente quella branca della medicina dove la prevenzione dovrebbe essere la parola regina, e invece purtroppo non è così. Grazie, prego, grazie. Arrivederla, buongiorno. Arrivederci. Mi ha fatto molto piacere che sia intervenuta questa psichiatra, perché il problema, insomma, esiste, come abbiamo visto nella lettura prima dei giornali, cioè questa fatica di accettare la malattia mentale e la crudeltà, l'aspetto feroce, quasi incredibile, irrazionale che può esistere, che può esserci nella malattia mentale. E io mi rimetto ai giudizi di questa persona, che sicuramente è più competente di me, però certo le cose che diceva fanno riflettere, dovrebbero fare riflettere prima di esprimere giudizi affrettati e perentori del tipo è impossibile che un uomo da solo e via così. Andiamo avanti.